and gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Benvenuti e buona estate a tutti da parte di Andy, qua dallo studio dell'Oltre Papavese. Siete tutti all'ascolto di I Love Italy, la trasmissione che parla italiano nel mondo. In apertura, come sempre, un ringraziamento al nostro editore Jeff White, che ci permette di essere in onda su questa storica radio, Radio Miami International, WRMI, che trasmette da Okeechobee in Florida, in tutto il mondo. All'interno di I Love Italy ci sono 15 minuti che parlano italiano nel mondo. Parliamo di storia, di costume, società, cinema, televisione, chi più ne ha più ne metta, il tutto rigorosamente made in Italy. Alla conduzione Andy Mangiarotti. Se volete interagire con me ci sono tanti mezzi per farlo, lo potete fare attraverso il mio sito internet andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, lì trovate la mia mail per scrivermi e per segnalarmi magari il vostro rapporto di ricezione, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org per segnalare rapporti di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Vi rimando anche al sito di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate un link per scrivere il vostro rapporto d'ascolto in formato telematico. Poi c'è anche l'indirizzo di Radio Miami, se magari come Andrea siete un pochino vetusti e amate la cara vecchia corrispondenza con la posta ordinaria. Siamo in onda su varie frequenze, le principali sono ovviamente i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Gli orari di messa in onda sono svariati, per conoscervi vi rimando al sito appunto di Radio Miami, wrmi.net, li trovate tutti gli orari di tutte le trasmissioni appunto in onda su Radio Miami. È arrivato ora il momento di leggere qualche rapporto di ricezione che abbiamo ricevuto in queste settimane. Partiamo con il primo rapporto di ricezione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. La prima mail la riceviamo dal Canada e precisamente da Toronto. Ciao Andrea, ho ascoltato per la prima volta il tuo programma sabato 19 giugno alle ore 4:45 ora locale di Toronto, Canada, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma per gustarlo più a lungo. Vorrei anche ricevere una cartolina QSL. Grazie mille, Vito Carriero da Wallbridge, Ontario, bellissima zona. Caro Vito, grazie veramente, un abbraccio grande, grazie di cuore per le tue belle parole che mi stimolano ad andare avanti in questa trasmissione, direi molto goliardica e amatoriale. Un saluto speciale a tutta la comunità italiana di Toronto, siete tanti, affezionati e siete come sempre nel nostro cuore, anche qua dall'Italia. La QSL è in arrivo, è in partenza con un aereo della nostra mitica Alitalia. Non so se ci sia ancora, penso di no. Comunque, grazie ancora, caro Vito, per il tuo rapporto appunto di ascolto. E ora andiamo avanti. Dopo Vito abbiamo una seconda mail che ci viene inviata, niente di meno che dalla Cina. 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。要练习意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。E dal Canada, come vi ho preannunciato in precedenza, ci spostiamo dalla Cina. Seconda mail di oggi, dallo Jiangsu. Cara Radio Miami, amo l'Italia, ho ricevuto il vostro segnale alle ore 01.15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz, l'effetto d'ascolto è molto chiaro, uso una radio Texun con antenna esterna. Mi piace molto il vostro programma e spero di continuare a lungo ad ascoltarvi. Vorrei una QSL cartacea, se è possibile anche un souvenir del logo della radio. Il nostro amico è Ding Lung dallo Jiangxi, provincia dello Jiangsu. Ding Lung spesso e volentieri ci ha scritto un po' a tutte le trasmissioni di Radio Miami International, un ottimo ascoltatore che ci manda sempre dei rapporti d'ascolto molto molto dettagliati. Mi ha inviato appunto anche un file audio del suo rapporto di ricezione. Grazie Ding Lun, che bello ricevere la tua voce dalla lontana e amata Cina. Un caro saluto da tutta la redazione di I Love Italy a te e al popolo cinese. La cartolina QSL, come si suol dire in questi casi, in questo istante è proprio in volo. You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Ed eccomi qua, appena tornato dalle vacanze. Poche settimane fa ho visitato la bellissima Tunisia, in particolare la città di Madia, di Tunisi, di Cartagine. Veramente bella, veramente intriganti, molto molto belle. Mi sono trovato benissimo, è stato un piacere insomma conoscere da vicino il Maghreb, in questo caso la Tunisia. Ho conosciuto un sacco di persone e vi invito veramente a visitare questa terra, perché gli abitanti sono molto gentili, accoglienti, simpatici e vi troverete sicuramente bene. E ovviamente c'è anche un altro rapporto di ricezione, questa volta però il rapporto di ricezione è il mio, avete capito bene. Ho monitorato anch'io Radio Miami International dalla città di Madia, per l'esattezza venerdì 18 luglio alle 05 sino alle 05.30 locali, orario appunto della Tunisia. Ho sentito Radio Miami International e il mio simpo è 45333. Ovviamente ho registrato anche un file audio che vi faccio ascoltare. Questa è Double RMI dalla Tunisia, dalla città di Madia. In this day and age, in my opinion, this is the latest news from VOIW Radio International. Now for the remainder of the broadcast, I'll be balancing out this talk and discussion with some listener requested music. If you are tuned into this broadcast right now, please note that I have no analytics. 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다. Proprio parlando di italiani all'estero, che oggi vi voglio portare in un luogo speciale. Siamo in Tunisia, appunto recentemente visitata dal sottoscritto, quindi non siamo in Sicilia, anche se la musica potrebbe sembrare. Siamo in Tunisia e anche qui, pensate un po', alle porte di Tunisi c'è un quartiere che un tempo sembrava proprio uscito da un borgo della Sicilia. Avete capito bene. Il posto si chiama La Goulette, ovvero il quartiere dei siciliani. Alla fine degli 800, centinaia di siciliani attraverso il mare cercarono fortuna anche in Tunisia, non solo negli Stati Uniti o magari in Europa, ma avete capito bene, anche in Tunisia. E praticamente si sono insediati in questo quartiere che ai tempi si chiamava per l'appunto il quartiere dei siciliani, una piccola patria dove c'erano scuole italiane, forni siciliani, chiese cattolici e persino processione per Sant'Agata e anche un cibo particolare che mischiava il couscous con la caponata. In questo quartiere è nata anche una delle attrici italiane più belle, Claudia Cardinale, simbolo appunto della bellezza mediterranea, figlia di genitori italiani che erano appunto emigrati alle porte di Tunisi. È una testimonianza vivente di quel ponte tra l'Italia e la Tunisia, tra memoria e identità che comunque quest'oggi non si perdono, anche se il quartiere denominato appunto Goulette, la piccola Sicilia di un tempo, magari oggi non esiste più perché magari non si parla più tanto il dialetto siciliano, però rimangono queste testimonianze di un passato glorioso e meraviglioso quando appunto gli italiani, diciamo così, emigravano un po' in tutto il mondo e persino in Tunisia. Lo ammetto, sono dovuto andare a Tunisi per scoprire questa bella chicca che mi è sembrato doveroso e giusto citarvi qua. I love Italy. Noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio ancora una volta Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami International per la grande opportunità di parlarvi della mia nazione. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre con un'altra puntata di I love Italy. Da Andy Mangiarotti è tutto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao, bye, ciao ciao. www.andreamangiarotti.com Italy, yeah, I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy, yeah.